sì, la capitanina, proprio qua siamo all'inizio, non l'aggiungo, ma le morte la bacio. Qua siamo proprio all'inizio, proprio. E ci sono già tutto. Non si è una nocciata con il loro, non è proprio nessuno. A Germania perciò. E quando chi lo dritto, quello non è così come sta che ma già fa? Ma quando chi ti fa ammannati, che ce la fa? No, non è che ci sono poi, la mia maniera di risolvere un problema, perché se no, sta meglio a loro. Se ti trovo a capoto tu, se mi capo facciato, la gente se ne va a fare la strada. No, non ci sono ancora. Ti faccio l'aiuto, l'ho capato a scaricare. Ma lo dico. Ti faccio un palazzo, non stavo dentro la faccia. Mi dicevo già, siamo venuti. Ah, chi lo faccio scaricare? A fuoco? Scarica a fuoco lo faccio. Vabbè, come ti imparate a buttare? Dritto a dritto, no? In modo che c'è avuto la ritassa giù, noi venivo per far sciogliere alla quanta maniera. Poi era oggi, era sempre superiore, era pari di stagione. Se io mi metto a e mi metto a fare la retromarcia, a fare retromarcia, mai. E pure si vede 10 minuti, poi ci sta mancando, sta proprio per avere lei, ma ci sta mancando. Perché tu faccio parlare di parcheggio? E tieni più spazio, capito? Vado da cielo, e poi ti faccio parlare di parcheggio. Quando vedo che si sta sussurrando, mi fermo, vado a scendere da parcheggio. Puedes repetirme tu indicativo, pues, ¿vale? A ver, Palma de Mallorca, puedes repetirme tu indicativo, pues. secondi dopo ho chiamato, ma non mi ha risposto nessuno, forse eri in ascolto nell'altro canale. Ho messo un doppio. A parte il fatto che ce li ho tutte e tre accese. 20, 10 e 23. Le orecchie di porco. E non si sa mai, capito? Meglio sempre stare in ascolto. Oia, oia. Non avevo luce, lui, te l'ho detto. Evidentemente stavano facendo qualche lavoro qua in zona, hanno attaccato la luce al gabbio elettrico e ai carbonati. Che pizza! È tornato da poco fa, però io mi sono dormito e non ho già bianco. E intanto la facevo, ho abbassato l'interruttore, perché vai e vieni, vai e vieni, vai e vieni, ma alla fine si rompe qualcosa. Allora ho abbassato l'interruttore generale della radio e ho tenuto tutto spento. Poi visto che è tornato, ho riacceso tutto. Bravo, bel lavoro. Eh sì, perché a volte arrivano degli sbalzi e brucia canto qua. Ma il Covid non si è sentito? Sì, eravamo in PMR. Ha detto che stava mangiando la torta. E a fermori! Cosa, Luca? Stavo parlando con mia moglie, che mi ha assillente, cosa hai detto? Che stava mangiando la torta. Ah, no, la torta stava mangiando. Allora, Luca, canta ancora. Cosa, da domenica ancora mangia della buccia. Ma lo faccio. Ha detto che è ancora più buono. Ancora più buono? Allora la lasci stare ancora. Ha detto che questa polverina bianca non è tutta la velo, mi è muffa. Vabbè. Comunque oggi si poteva fare quel lavoro, invece non ho fatto. Però domani è bella giornata, domani c'è bella giornata. Allora sul petto domani mattina, mi mettivo sulla mantova. Bene, mi metto i tiranti, che non ce n'è, l'hai visto, quelli che abbiamo recuperato, e poi tiro su anche la 50. Chi è? Bimbomba. Non ho capito chi è. Cambello, parigi. Luca. Stavo uscendo male. Ma sono via Luca, gatto. Ma ti vado da controllo se l'antenna. Ma ho detto vedo tutta scarica, ho detto boh, provo a abbassare il macchine. Se lo abbassi è peggio, è più bella alta. Magone, cosa ci vuoi fare? Infatti ti sentivo basso e l'aria giù. Allora, infatti sono 6, aspetta. Intanto e mo siamo a 10, 15, basta. Ah, c'era così 10 watt, anche io ce l'ho 20, no, 20 ne ho io, 20 ma l'ho fatto 40, vabbè, cosa fai abbasciati la molla? Ah, c'era così. In PMR ma non risponde. Se ne esci tu. Sì, casa di Vennari oggi. Non sembrava fare qualche lavoro. Poi tu alla fine avevi ragione. Potrò fare anche io stamattina anche lavoro. Bella giornata oggi. Anche c'è un po' di freddo. Però domani mattina va proprio bella giornata. Domani è molto bella la giornata. Ma salgo su e mi completo quella roba là. Magari mi boccia qui a terra se c'è sole. E mi smonto il radiale della tre elementi. Perché sennò quelle bobine vanno a finire male. Te le porti dentro. Poi, quando si ribiglia. Ma infatti, però le smonto, capito? Per Monto e Donato tutti assieme, vabbè, il bugio è lì, il Cavallotti c'è tutto conservato. Se dopo che non mi casini con l'altra piazza, non è una più grande dell'altra, quindi non c'è problema. No, infatti. Cavallotti già te li ho dati. Sì, infatti una mattina salgo e li attacco la piazza, così non si perdono. Mi faccio prima il lavoro di quello che devo fare e poi mi smonto quei gli elementi della tre elementi radiati e li metto dentro dritti assieme agli altri, così non c'è niente sul tetto, capito? Tanto per lasciarli rovinarsi. E io mi ho già consegnato il pacco al corriere. Ehi, ehi, speriamo che arrivi integro tutto. Ho usato la sua scatola originale, poi l'ho coperta con una busta, hai visto? Non ne avevo altre scatole più grandi. No, ma già va bene quella lì, è ferro, ma non è che... Se vogliamo fare bene ci fate le mariette, non va bene, non rotto. È contro il box che è pericoloso, capito? Ma già gli ho messo le mille bolle a quello, capito? Tutto bello imbulizzato. Ehi, ehi, e quei pezzi del cavo col connettore li hai messi dentro? Sì. Già ci sono stati, no? Sì, ci sono stati, sì, ci sono stati bene anche. E così c'ha tutto, dai. Poi se esegui più lungo, se allunga un cavo. Che cosa ci vuole? Spella i fili e li vulcanizza. Le mette i mammut, vulcanizza tutto, va bene lo stesso. Non fa niente, poi magari non è come me che serve tutto in euro 50 metri. Però ho visto quanto ne abbiamo recuperato, ma è cosa fare, un altro pacco a parte fai, e se abbia il culo. Ma infatti. E infatti. E ne avevo un bel io perché non sapevo la misura esatta, l'abbiamo lasciato tutto su con... Chi mi ha dato la mano a montare le antenne, capito? Però adesso c'è solo praticamente quello dentro la canala, io ho la sonda, aggancio e tiro, però tirando posso danneggiare anche gli altri cavi, capito? Quindi la lascio stare lì, se la biglia in culo. Infatti, se no fai danno, rischi di grattare gli altri cavi, e lì che a contatto con l'acqua non è una bella cosa. Infatti. Ma non sono a contatto, vabbè, l'acqua gliela prendo lo stesso, però mi sono fatti per esterno, quindi non è so fare interno, non mi dai gare, leva l'acqua sole non la prendono quel cazzo, perché sono dentro quello del pluviale, però sono ancora all'interno di un corrugato, quello elettrico, capito? E scendo vicino alla finestra. E poi c'è la sonda che è legata vicino alla finestra, lì se devo tirare su qualche cavo, qualche cosa, arrivo alla sonda e tiro su, capito? Sì, è un bel lavoro quello, un bel lavoro, sempre, tanto in facciata non te l'avrebbero fatti calare. No, non mi ha detto niente, ho fatto io la soluzione così, e poi mi ha detto l'importante è non cannò, perché prima era nono piano, quindi c'era la mia ultima finestra, entravano lì. Non so se è il secondo, ho detto il cavo, ma come faccio a scendere il cavo? Mi ha detto, che te devo lì? Fai tu, mi ha detto, l'importante è che non le metti davanti alla finestra degli altri. Vedi tu, quindi potevo anche farli scendere esternamente, ma erano brutti. Allora gli ho detto, ma se li faccio scendere dentro il pluviale, all'altezza della finestra, mi faccio una finestrella, e fai tu, che me frega a me, mi ha detto. E quindi ho fatto così. Ma non eri più comodo al nono piano? Avevi meno perdita, meno cavo. Sì, ma ci avevo una stanza in meno, bro. Aia. Non ti ricordi, boh, forse no. Non ci conoscevamo, non lo so, non c'eri qua, boh. Ma comunque adesso ricordo. C'era accampato, ero nella stanza di mia figlia. Ero nella stanza di mia figlia, così via Pasqua è la stessa cosa. Ci avevo due stanze solo. Questa è stata una mandata al cielo, perché quando sono morti i miei suoceri me l'ho presa io, capito? Aspetta che sta bevendo Filippo dopo che vede il muso. Sì. Eccomi. E quando beve il cane devo pulire le luci, se no sta di gottiende di tutto. Aspetta. Ehi, lasciamo qua. Chi è? Avanti. Avanti, c'è posto, avanti. Bim bum Mariello. Fatti ne. So che c'è sul 10, sul 23 non c'è nessuno. Sul 23 è presto ancora, ma rientrano più tardi. E che c'è sul 10? Mi sembra tanto di sentire la voce di Franco. Franco di Sosso mi è sembrato, però ho girato subito. Sì, è entrato stamattina anche. È entrato stamattina, ha detto che è impegnato, sta facendo lavori, quindi un po' assente. Non lo so. Sì, vabbè, noi qua siamo. E cosa ci vuoi fare? Vabbè. Via via. Non ho scritto per niente, neanche messaggi a Luca. Ma sì, su WhatsApp. Era già fine, mani della duca. Deve essere. Sì, beh, il Moxon cosa hai detto che praticamente c'ha? Nulla. No, non c'ha niente, carica batterie ci vuole, boh. Ho preso quello là, ma va quando arrivo, intanto lo carico così nel frattempo. Ehi, avevo anche il microfonino, l'ho guardato a Massimiliano. Ci ho provato anche il microfonino. Lui c'è anche il microfono. Vedi, sarebbe stato comodo perché l'avrei fissato la radio. E così non c'avevo la radio in mano, antenna esterna. No, non ho più di microfono. Io non ci vuole niente, mi ha fatto lui. Questo là ci vuole fare un microfonino per quello, un jack a me. Cosa? Tu sei pratico. Devi trovare un microfono più piccolo possibile, di quello della 27. Capito? E metti un jack, io l'avevo fatto. Non mi ricordo se è quello piccolo o quello grande. Sì, un attimo qua. Ma Luca, Luca, giovedì tu eri nudizi. Che scemo, non mi sponda come platinetto. Ce lo voglio, non ha nessuno, lui sono appena rientrato, lo vedo in casa. Oh, c'è Natalino in PMR, sta facendo le prove. Così vediamo se lo sentite. Ehi. No, è solo il 91. Hai capito qua? Cosa? Luca, come platinette, cambia sponda. Se non devo dirci, da buttare un renocchio, da buttare un zucchino via, fa oraggio. Sì, vabbè, può andare dove vuole. Perché ho cercato poco fa, c'era Luca, ma no, non c'era. E mi sono messo qua sui 20. Già va bene lo stesso. Faccio di biombo, mi su ghinoghini. Sono al telefono. Ah beh, allora se come sa devo dire, come ti fai la gente si chiami qua vedendo. Che maledetto. Ah, quella lampadina provata l'hai poi. Ah, te mi avrei sentito. No, no, no, non l'ho... Non l'ho cambiata ancora. Devo aprire la radio, ma già... Adesso vediamo, però c'ho voglia, la faccio. È sempre qua sul tavolo. Ma me ne ho trovata un'altra, mi sempre uguale a quella. Va bene, va bene. Allora Luca Finocchio al telefono. Anzi, non c'è più sul tavolo. Non c'è più sul tavolo, sicuramente l'ho buttata. Ma dimmi un ducato. Per carità, guarda, per carità. Stamattina stavo prendendo la scrivania, adesso con la traccia l'ho buttata via. Perché non è esaurito, boh. Capito, mi hai l'ho buttata via. L'ho buttata via, stavo facendo pulizia e l'ho buttata via. Ma cosa? Ah, la palina LED che mi ha dato Luca. Ah, i tre LED. Cosa? I tre LED. No, una solo, piccolino, con la resistenza attaccata per mettere a 430. E invece stavo spolverando stamattina la scrivania, l'ho appoggiata dove c'è il computer. A proposito, sono detto il computer, quando te lo porti via, Luca? Ah, quando me lo porto via, l'altro sistema, poi a venderlo si mette nei gruppi, proprio devi seguire tu, dice noi su di Gabbo e Ucla, mettiamo il tuo numero e poi ti metti d'accordo, io te lo sistemo, te lo rimetto come era, sono formato, ti metto il sistema operativo, facciamo gli aggiornamenti, metto l'antivirus e poi ve lo puliamo, la ventola, la pasta di raffreddamento. E allora tu hai ballo, non voglio più vedere di sopra, non sto manco accendendolo. Io lo accendevo per avere le mail non viene più, quindi non me la fotti più nulla, capito? E bisogna toglierlo, anche perché con la scrivania la devo togliere, che devo volare, e lì ci va un divanetto, capito? Un salottino devo fare, dai. Sentitemi a lui cosa ti ho detto, taglio la lampada alla lampadina, ragazzi, sono di pulizia. Non me ne sono accorto, l'ho buttata via, non c'è più sopra la scrivania, ma dimmi il duca, allora vai due e tre che le metto una mondezza, piccola com'è. Te l'ho detto, ne ho un'altra, ma secondo me ti conviene ritirati le ciamballa, che se no poi si bruissa, e non ha già. Ma c'è già la resistenza attaccata? È uguale. Porca puttana, mettimela da parte, cazzo, non ci vediamo, ma la vai. Ah, dimmi tu, era lì, cazzo, la potevo togliere e mettere dentro il cassettino, no, l'ho già lasciata dentro la scrivania proprio per cambiarla. Stamattina mi sono messo a fare, ho fatto un po' di nastro, dai, scotch, tutti che cazzate, pezzettini di filo, ho già baciato la mano e sta già un po' di bruiscia. Aspetta un attimo, arrivo subito, guardate se il PMR sentite Natalino. Eccomi. Ho delle scariche, boh. Delle scariche? Vuol dire che c'è la corrente attaccata al baracchino. Sembrava uno splatter. Se si buona a far vedere 23 sicuramente da ammattano. Sicuramente. Non più c'è radio, non lo so. Vediamo un po' se c'è Giulio. Giulio, dimmi, lo vuoi mia come pure. Attento Zingaro, che bravi moci vero che non hai vinto, non ti dice, vuoi che viene a una mano? No, platinette li andato, platinette, attento, platinette. Hai capito, platinette? Luca Frippe. Va bene, c'era Luca Frippe, c'era qua anche. Luca Frippe, buonasera a tutti. E poi che c'è? Anche Luca al Maricone c'è. Lui non manca mai, c'è Luca Maricone, Luca Flippo, io. Poi magari più tardi entrerà qualche altro, Antonio. E siamo qua. Ci diciamo un po' organizzati, dai. Ah, chi è questo Breco Breco? Attento l'amico che chiede Breco Breco, avanti. Stai uscendo male, tutto pieno di fischietti. Non ti capisco. Tu capito, Ecla? Deve essere qualcuno in preparazione, però ci sono i fischi proprio della preparazione qua. Sì, sì, è quello che è entrato l'altro giorno, quello in Valencia. Però boh, ascolto un bel male. Vediamo se senti a Luca che ha messo a posto l'antenna. Maiko. Ehi, Giulio, mi senti? Certo che ti sento, come sempre. Ah, ero rimasto quella di prima, comunque la stazione a due adesso, eh? Prima erano quasi tre. Ho capito Lu. Prova se il capo è abbastanza lungo, prova a fargli un paio di giri, a fare una specie di ciocche, su vicino all'antenna. Sì, cavolo, come faccio? Ormai è bloccato con la isolante. Ah, la dovrebbe fare prima, perché magari non c'è un adattamento perfetto, perché sei lì all'imaletta, sì, no? Sì. Appunto, dovevi farlo prima, vabbè, magari facendo un paio di ciocche a capo di discesa, lì sotto l'antenna praticamente, probabilmente sarete riuscito ad adattare bene. Vabbè, comunque, ormai ho fatto, pazienza, dai, tieniti lì sotto controllo, allora con l'ormetro, cosa vuoi che ti dica. Poi Luca Flipper, ci sei? Luca Caramella! Chi è questa? Chi è questa signora o signorina o ragazzina o bambino? Mi sentite? Sì, ti sento, avanti. Pronto, pronto, mi sentite? Sì, che ti sento, tu non mi senti? Chi sei, ciao? Io sono Filiberto sono, tu chi sei? Marco. Ah, ciao Marco. Quanti anni hai? 7, 8? 12. Avanti, Cla. Però se vorrei un vicinetto a me lui. Ha fatto un corso. Ma proprio piccolino, eh? Sagaruba, che ti dimentico. Senta, e allora, per sentire le cretinate che stavo sentendo un po' canta in un altro canale, tanto meglio sentire Luca che fa il bambinetto, piccolino. Luca! Ma si è del sciappiomo, quando mi sono i gosi, ma non è a butti a te, cretinette! Guarda che da segnare non puoi scappare, amici. Guarda che da segnare non puoi scappare. Ti ho risposto perché ho capito che tu se no lo trovi all'acqua del punto con la voce da bambino. Siamo scappati da quella parte là per evitare i mocciosi. Figurati se c'è una bordetta qua. Oh, vabbè, dai, avanti qua. Ma lei si è chiamata poi con l'antenna, l'hai tirata su, cosa hai combinato? Ma io? Ah, Flipper, se vuoi zende, che mi ha dato già lontana, o rispondi, non ti chiamo bimbi. Ma tutto mangiato direi, l'asinello, tutto te l'hai mangiato. Ehi, ciao Giù, buonasera, qual è qua? Qual è l'antenna? 510, messa a posto, l'hai ricontrollata, l'hai? No, domani col rosmetro a controllo. No, l'ho messa su nel solito palo. Però le ho messo anche un tubo da 2 metri e dopo vediamo un po' Tino se mi sente, la tiro su tutta quanta. Ma prevale sempre quella più corta, fuori a te. Prove tecniche già fatte negli anni, non c'è niente da fare. Per l'UHF è più corta e meglio è lui. Quella la puoi usare per altre bande, però sicuramente prevale quella più corta. Ne hai visto il risultato mio. Mi sento molto, ma molto più forte. Mi sentivo anche con l'altra, con la 510, però con quella più corta mi sento molto, molto meglio in UHF. Magari un po' più scadente in VHF, in diretta, però in UHF è molto meglio, no Giù? Penso più veloce perché si avvicina di più alla frequenza della 446, certo. Sì, però a Luca le volevo chiedere, ti sei mangiato tutto, quel ben di Dio di Asinello, tutto te l'hai mangiato Luca, ciao. Un pochino, Giù, un pochino. Vabbè, non puoi farne la cura, no? Che tanto mangi, a mangi poco, a boh. vabbè, meglio così. L'appetito quando c'è bisogna anche sfruttarlo. Oh, yeah. Manicomio, avanti. Chiude mangiando la buccia, prendi mangiando in buccia. E lo sai che mi dico, no, sto mangiando pane guttiauca, buono, quello piccante, quella pezzi piccolini, buonissimo. Lo prendo alle spiriti, 300 grammi, 3 euro. Quindi non mangiando la buccia, lo dico. Il piccante, salato, dai, il guttiao è salato, no, noi prendiamo l'altro che non è salato, ma è buono lo stesso. È buono lo stesso, lo compro qui alla MD, qui vicino, il nuovo negozio che c'è in linea d'aria a 100 metri, 150 metri in linea d'aria da casa mia. Va bene, no, è bello, la sera già piace mangiarsi un paio di fogli di carta da musica, voi te la vuoi già mai. Avanti Claudio. Sì, lo prendo anch'io, l'ho preso l'altro giorno. Però anch'io prendo quello normale, no, non quello salato. Mia moglie le mette un po' di olio, lo mette in forma tostata, ma a me no, non mi interessa. Lo mangio normale, capite? Va bene. E cosa vuoi cibo? Non mi ricordo. Non mi innamento. Vabbè, se mi ricordo, dico. C'è una fogna, Ocla, una fogna. Non mi è piaciuto il genere, popcorn, patatini, nocciolini, maniguttiao, puzza. Ma la duca tutta mangiata deve manco. Mi è rimasto un quarto. Buona, buona, ma buona veramente. Infatti sta anche alta, bella, proprio bella. Ma volevo dire a Luca, ma quando ne hai tanta di carne, che la mangi così, un giorno sì, un giorno no, cioè, ma non la metti in freezer, la condisci e la metti in frigo? Allora, non in freezer si rovina quella. Vabbè, io quella che... E conti di ordinarmela, anch'io, la voglio assaggiare, poi se è buona, magari ne ordiniamo di più. Però un chilo a noi già va bene, la condisco e le prezzemo, la metto in frigo, olio. Faccio, capito? C'erano belle giornate, magari ne avevo preso di più, l'avevo fatto in campagna, ma non ci stiamo andando. Quello che vuoi, dov'è? Va bene, va bene. Con dita o senza dita, è buona come a te. E io te lo dico quando la mangio, vero? Io te lo dico quando la mangio. Io ho detto giù, stiamo facendo la dieta con la carne di asino. Della buona, non è buona, la buglia. Te lo credo. No, io oggi polpette al sugo, molto buone. C'è una bella pasta asciutta, sempre col sugo delle polpette. Proprio un bel piattoccio, ne ho mangiato. Adesso stanotte sicuramente salmone, code di salmone, per cui è un altro po' di pasta e se mandavo per luci. Poi domani si vedrà. Ascolta, le code di salmone cosa fai? Le spinate? Le fai con l'olio, bollite con l'olio, o in tegame diverso? Ma io ho visto mia moglie lo fa col prezzemolo, l'aglio prezzemolo in tegame, quello la coda, però non quello con le spine, no, senza spine questo, la coda, 17 euro al chilo, costa qui, l'ho comprato, da cosa l'avevo comprato, alla Conad, l'avevo comprato sulla Conad di su, via quello, va bene, la parte alta, dai. Sì, lo prende anche mia figlia, prende la coda, però io la praticamente l'apro in mezzo, no? Tolgo le spine da mezzo, da dentro, e poi la metto in tegame lo stesso. Aglio e prezzemolo, olio, aglio e prezzemolo, sì. E così è molto buono, una girattina, è buona. Sì, no, questa è già spinata, non deve fare niente, questa è già spinata, la compro direttamente già spinata io. È la cola, praticamente è fatta a filetto, è fatta, capito? Poi la parte sempre della coda del salmone, che è già spinata, la vendono così. Poi c'è anche la parte delle costole, ma quello non mi piace stare sempre togliendo spine, anche perché sono abbastanza grosse. Sono proprio quella, costa molto di più, non me ne frega niente, però almeno so che non ci sono spine, è pulita e poi è più buona, per conto mio è anche più buona. Luca, allora l'hai detto, come ti è andato? Ho fatto la I.O. Oh, scusate, io ho delle scariche che coprono a Giulio e a Claudio, non li sento. Lu. Oh, queste scariche me le ha avute, sembra fatta apposta. Beh, non sentirà Claudio neanche, è a Giulio fuori a Mari. Stai prendendo colpi dal canale 10. Sta bottando, ti stanno, Luca. E va, aspetta. Non ti mando un video, così lo prendi, aspetta. Bobo, capita, cosa vai? Il fuoco artificiale vai, vicino a casa tua. Il fuoco artificiale lo prendi. Ti stanno sabotando. Magari sta prendendo, se c'è già nei 10, magari sta prendendo splatter da lui. Sembrano scariche, ma sono splatter, capito? Sicuramente. È probabile, se essendoci già ne lì sul 10, penso che ci sia ancora, non lo so, o quasi c'era, è probabilmente quello, dai. Quello è il difetto dei certi baracchini, d'altronde è così, e cosa vuoi fare? Anche tu sei bombardato, Luca Flipper. Non è bello dei golpi, Luca, anche c'è radio, e neanche io con questo. Neanche il baracchino, vabbè, che sono per dei colpi. Assolutamente, già va bene. Probabilmente, o sono sul 23, qualcuno sul 23, che allora stanno bombardando per quel motivo lì, essendo il 20, 23 siamo molto vicini. No, io la verità qui non ne sento, nemmeno se mi sposto di un canale non sento gli splatter di nessuno. Vabbè, questo è diverso, il discorso non è baracchino, comunque va bene così. E poi sono io anche, diciamo così, un po' all'esterno della città, per cui è più difficile che arrivino gli splatter qua. Qui mi può splatterare solo se entra Walter, allora sì che gli splatter li senti lì, ma diversamente non li sento. C'è gente al 23, no? Sono i vecchietti al canale 23, se bigliano dei golpi, non so scaricano. Secondo me è quello, Claudio, bigliano dei golpi, dal 23. Ho girato adesso, c'è Dio Maria con Paolo sul 23. Sicuramente per quello che sente scariche, ma non sono scariche, sono colpi. La scarica è quella che 10 minuti fa ha mangiato la duccia, poi mangiando il pane cottiato. Boh, una voglia. Cos'è, una discarica è diventata? Boh, boh. Dai, lo mangiare, gli arma con cresci, così allunga un po', altri 10 centimetri allunga. Per 7 mesi torna a mangiare. Che cena a quell'ora. Una tombarella è diventata. Sta piazzando bene, no, già viaggia. Si è comprato lo spray per le mandibole. Dai che me lo va. È giovane, dunque va appetito, è fase bene. Si vede che la fidanzata le prepara dei piatti buoni e sostanziosi, per cui lui ingoia e buono. Io. E tu, Luca, che tu senti flatte? Non credo proprio. No, niente qua. Non ne prende niente. Forse magari se mi metto sul 21, Non sono splatter, sono delle scariche, non ho splatter, non li sento a loro, io ho anche attenuato, non sento niente, no, non li sento, loro a me magari sì, ma io a loro no. E allora cosa può essere? Cosa possono essere? Non lo so. Strano però. Prima non li sentivo mai queste cose. È un disturbo, non so come sta disturbando, cosa ne so, i suoi bandi. O sono splatter o sono scariche atmosferiche. Ma è abbastanza lucido il cielo, quindi non penso che domani, poi tra l'altro è bella giornata, quindi non so. Può essere abbattimento. Luca, manicomio, ma se tu non mi senti più, allora butto via tutto io qua. Capita, mi stai scoraggiando, mi stai. Che strano, siete tutti vicini, lascia perdere a me, sono lontano, ma va giù 40 watt modulati, 20 più 20 di picco, se non mi sente vuol dire che è un casino. A meno che non è difettoso il suo malattio, e che lo sa. Tutto è possibile, non c'è niente da dire, perché l'elettronica è un enigma, sempre da capire, sempre. Avanti Luca, flippelo. No, giù, non sono battimenti, non sono sblaster, sono delle scariche. E allora c'è l'Enel che ci sta sabotando, guarda, ti ha mandato un po' di tensione più alta e ti sta bombardando dentro il baracchino. Luca Flipper. Sì, anche secondo me è così. E le mandibole che fa, che le fende abbattimento. Non so come te lo male cucchiao quando sei matigheni, cra, sarà quello. Ah, Claudio. Allora, no, si sente, sì, che sto masticando. Si sente. Però, no, sicuramente c'è uno scarico elettrostatico, se non prende colpi con la radio, lui dovrebbe essere scarico elettrostatico sicuramente. Forse è dovuto dall'alimentatore. Sentiamo dopo la casa, dai, tanto non può prendere il tram. Ciao Lu, ci sentiamo dopo, vai. Adesso viene già piazzata l'antenna. Sta piazzato, un'antenna sta piazzata piena di rumori, bubu. Sì, vabbè, dai. D'altronde, metta in quelle condizioni, cosa vuoi fare? Bene o male, non ti devi aspettare sempre qualche piccola interferenza, no? Ma il fatto che non riesca a sentire a me, che non riesca a sentire a te, claro, questo mi preoccupa un pochino. Io quasi prendo, metto dentro una busta, stanotte passa quello, domani mattina passa lo spazzino e butto via tutto. Cosa vuoi che ti dica, claro? Mica non sia Marino invece, lo spazzino, insomma. Se passa Marino, se ti butta tutto. Andiamo meglio. No, perché sul 23 sono passato un attimo, non c'è nessuno, silenzio assoluto, per cui non capisco. Vabbè, dai Luca, che cosa mi serve, lei come si chiama, il Baofeng? No, non c'è nessuno. Ascolta qua, sono un po' girato, c'era Giovanni Montore, per quello pensavo stesse prendendo colpi da loro. Ma io ce li ho tutte e tre accese, le radio o lui, quindi sono qua sul 20, 23, 10. No, chiaramente devo commutare per ascoltare, anche se non si sente detto, si sente attento. Ti dico che è un commutatore giro. Io sono sul 20 e sul 10, va. RM, va, se senti qualcosa. Non si sente assolutamente niente. Assolutamente niente, non c'è nessun rientro. Quando il commutatore è serio, quello che stavamo dicendo stamattina a Giulio. Quando c'è la commutazione che chiude bene, non te ne devi creare problemi. Certo, ci poni un commutatore della ZG, fai giù un casino. Oh, io non chiude niente, quello non chiude niente, per carità, è una porcheria. E ne ho uno, chissà di dove ce l'ho buttato anche, sarà su, dentro qualche scatola, ma non ha mai funzionato bene, quello della ZG, ha quattro uscite, mi sembra che c'erano, sì. Ah, per carità, nemmeno a parlare, infatti l'avevo solo provato, ho visto che non chiudeva, l'ho messo da parte, nuovo, l'ho messo da parte, non si vede più. Adesso non ricordo se l'ho buttato o se l'ho conservato ancora, non lo so. Vabbè, no, stavo dicendo, lui, mi serve il Baofeng, l'avevo preso, no? Crepitina. E beh, ci vuole il tuo intervento per ordinarmelo, no? Naturalmente dopo che ti ho dato la grana, è ovvio, no? Questo è normale. Ehi, quando ti piace, quando vuoi, giù, KK, e cosa ti serve? Boh, mamma mia. Sì, perché cioè, anche se mi funziona, però mi dà fastidio non avere il display, mi dà fastidio. E dunque, che funziona lo stesso, funzionerebbe lo stesso digitando la frequenza, però non mi va, ecco, non mi va. Me lo voglio prendere un altro per quello che costa intanto. Va bene, dai, appena che riesco a uscire, che domani ti faccio uno squillo e ti passo i soldi. Così fai tutto tu che sai come si fa. Però dopo me lo devi espandere anche mi Luca. Io lo vedo buono, poi non ce l'ho io il capo. Perché espandere oggi? Io il GT3 non l'ho espanso a nessuno. Solo gli 888 vogliono fatti tramite computer. Ma il GT3, non so a chi l'abbia fatto. Sì, quello sì, l'avevi fatto a me stesso, quello che mi avevi ordinato la volta scorsa. Anche quello vuole espanso, perché quello lì finisce a 470 e invece deve arrivare a 520. Deve arrivare. Non so se te lo ricordi. Guarda che col cavo, col computer l'avevi fatto. Sì, si fa solo col computer del cavo. E io c'ho il cavo del Bofing. A 5.20? Non mi ricordo. Però se l'ho fatto. KK. Sì, sicuro al 100%. Va bene, dai, quando ti porto il soldo ne parliamo. Lasciami trovare il momento giusto che posso uscire. Con questo accidente del Covid, ma cari dai, guarda come mi ha bloccato, a me mi ha veramente bloccato. Non mi ha danneggiato in altri sensi, però mi ha, diciamo, quasi arrestato, ai domiciliari mi ha messo. Vai Claudio. Ma non solo tu, no, non solo tu, tanta gente, e io perché lo capisci che ti ama. Sono stato rinchiuso a casa, non so più a che parte sbatte, a testa. Cosa vuoi fare? Mi sono andato da Luca in macchina. Abbiamo preso un caffè, non è caduto la mascherina, un caffè, ci siamo andati giù perché mi ha fatto la connessione all'MB+5, poi siamo venuti loro qua, abbiamo fatto quel lavoro delle antenne, basta, non sono lasciato a parte neanche io, dove andare? E purtroppo la cosa sta aumentando, quindi devi stare molto ma molto attento, è un casino, capito? Purtroppo sì, no, e poi anche col fatto della patologia che ho avuto io, insomma, penso che sia anche più rischioso, non lo so, suppongo di sì, ma avrei voluto fare, anche perché ho cercato di fare un lavoretto anche per casa e dunque salito la mattina, avrei fatto un paio d'ore anche in magazzino facendomi quel lavoretto e invece ancora sono così.